e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che tempo grigio stamattina, Nicoletta, ma noi ripartiamo sperando di portare un po' di colore nelle giornate dei nostri ascoltatori, degli amici affezionatissimi di Cuore Denari. Un raggio di sole, dai, due raggi di sole. Esatto, ci proviamo a farlo naturalmente partendo come sempre con la rassegna stampa di Cuore e Denari. Ti anticipo già, prima di lanciare la nostra sigletta che così introduce appunto i nostri primi approfondimenti di oggi, che la giornata finanziaria appare buona, speriamo che sia così per tutta la settimana. Partiamo. Allora, partiamo, come vi dicevo, con le buone notizie che arrivano dai mercati finanziari, perché dopo, per quello che riguarda il tema dei denari, approfondiremo invece le rogne fiscali e le multe in arretrato, anche se adesso c'è tutta questa grande operazione di rottamazione del pregresso con il fisco, quindi buone notizie, chissà, lo scopriremo stamattina, perché il decreto fiscale appare proprio in queste ore in Gazzetta Ufficiale, per cui vedremo i nostri esperti, che naturalmente si saranno già dati da fare a leggerlo. Direi di partire con delle notizie che riguardano la borsa. Allora, una buona partenza per la settimana, più 0,7% a Milano, più 0,7% a Parigi, più 0,77% a Francoforte, Londra più 0,28%. Parte bene, come dicevo, la settimana, in realtà stanno andando benine le cose già da qualche settimana a questa parte. Lo dicevamo stamattina anche nei nostri 100 secondi, si stanno avvicinando sempre di più due appuntamenti politici molto importanti, anche se geograficamente particolarmente distanti, però sono due test molto importanti per i mercati finanziari. Abbiamo il referendum italiano sulla riforma costituzionale e le presidenziali americane, e appunto, come vi dicevo, sembra abbastanza probabile che le prossime settimane vedranno gli operatori concentrati su questi temi, oltre che sulle solite indicazioni di politica monetaria da parte delle banche centrali. Però almeno per stamattina le banche centrali le lasciamo da parte, andiamo a vedere i singoli temi della seduta, i temi che stanno animando la seduta di Piazza Affari. Ormai il tema unico è quello bancario, e quello straunico è Monte dei Paschi, che anche stamattina corre più 12%, il titolo riacciuffa i 30 centesimi di euro. Su tutte le notizie che stanno galvanizzando il titolo ci siamo già concentrati a lungo, anche settimana scorsa, questo weekend la stampa era fitta di notizie sul futuro possibile di questa banca in grande difficoltà. Facciamo allora un riassunto della situazione con il nostro ospite di questa mattina, Luca Di Scacciati, trader, analista finanziario di investire.biz. Buongiorno Di Scacciati, ben ritrovate, grazie per averci dato la sua disponibilità per l'apertura della settimana finanziaria. Eccoci a noi. Buongiorno, buongiorno Deborah e Nicoletta. Buongiorno. Allora, prima di andare ai singoli casi, prima di andare a Monte dei Paschi, vorrei che ci desse qualche indicazione più su tutto questo ottimismo che stamattina c'è in borsa in Europa. Che cosa succede? Allora, sicuramente Monte dei Paschi ha influito molto, anche se in verità tanto ottimismo è dovuto all'uscita alle ore 10 dell'indice PMI del settore manifatturiero, che è balzato ai massimi degli ultimi 33 mesi, quindi un dato che si attesta a 53,5, quindi sintomo e segno di espansione per l'economia europea, quindi ottimi segni da questo punto di vista. Quindi questo è il tema che sta dando, come dire, il là anche agli acquisti sul mercato azionario. Devo dire che c'è ancora un effetto probabilmente della riunione anche della BCE di settimana scorsa, con Mario Draghi che ha detto: con il nostro programma di stimoli monetari andremo avanti certamente fino a marzo 2017 e probabilmente anche oltre. Non c'è in programma nessuna riduzione appunto nel piano di acquisti di titoli di Stato e obbligazioni governative appunto in corso, quindi certamente ancora quell'effetto traino c'è. Anche c'è un altro grande tema importante, ancora lo ribadisco prima di andare al focus su Monte dei Paschi, che è il tema dollaro di Scacciati, esatto, che so che appassiona molto anche voi trader. L'euro è in caduta, esatto, sotto il biglietto verde, che si sta rafforzando verso tutte le altre valute internazionali, merito della vigilia delle presidenziali, o c'è qualche cosa di più che sostiene l'economia stelle strisce e quindi anche la divisa di quel paese? Ma allora, l'euro-dollaro, quindi il cambio, è molto importante in questa fase tenerlo d'occhio, proprio perché gli acquisti oltreoceano sui mercati azionari europei, in particolare l'Italia, che è stato uno degli indici dei mercati che ha performato di meno nel corso degli ultimi anni, sicuramente aiuta molto, proprio perché in questo momento il potere d'acquisto degli americani, nella fattispecie, quindi appunto i possessori di dollari è davvero molto molto alto. Mi aspettavo con il dato di questa mattina sul PMI un rimbalzo un po' più sostanzioso da parte dell'euro. In verità non è successo niente di che, cosa che mi fa pensare appunto che l'euro sia destinato ancora a scendere, quindi certo. Diciamo che il potere d'acquisto di chi ha dollari in mano potrebbe davvero continuare a salire, cosa positiva per le borse di fatto, perché al momento in particolare la borsa italiana con i bancari sotto pressione ormai da tempo rappresentano davvero un'opportunità di investimento nel lungo termine. Non è una buona notizia per chi deve fare shopping, naturalmente dal versante americano c'è il Black Friday venerdì, cara mia, sei pronta a mettere mano alla carta di credito? Ti non introduco tanto al magico mondo? Venerdì ne parliamo, magari ci divertiamo un po', perché in realtà questa simpatica prassi americana in realtà l'abbiamo raccolta anche noi, e su internet in particolar modo ci sarà questa corsa agli sconti dai grandi operatori appunto dell'e-commerce. Magari venerdì, perché no? Adesso mi si è accesa una la lucina, lampadina. Esatto, e non solo la carta di credito. Di scacciati, Monte dei Paschi più 11,83% in questo momento, il titolo rivede livelli che non vedeva da settimane, anche se davvero siamo ancora ad un calo dai suoi massimi di oltre il 90%, siamo ben al di sotto delle quotazioni da inizio anno, comunque 30 centesimi di euro. Siamo alla vigilia della presentazione del piano industriale da parte di Marco Morelli, molti fondi sarebbero pronti ad entrare nel capitale approfittando della ricapitalizzazione, dell'aumento di capitale che è comunque necessario che il gruppo faccia. Allora, le novità del giorno quali sono? Ma allora, intanto sembrerebbe proprio che sia i finanzieri Paulson che Soros vogliano entrare e sostenere appunto questo piano di rinascita della banca, che è proprio una vera e propria rinascita, il titolo partirebbe di fatto da zero. Questi grandi investitori internazionali, si parla anche del fondo sovrano di Abu Dhabi, sono di fatto interessati ai 5 milioni di clienti presenti all'interno della banca, ma soprattutto ai 100 certo miliardi di depositi. Perché dal punto di vista retail, cioè dei piccoli clienti seguiti sul territorio da questa banca, la banca è molto forte, perché in realtà rispetto a quello che era possibile prevedere non sono scappati tutti quanti, nonostante le incertezze. Esatto, esattamente. Quindi diciamo che non mi stupisce questo balzo delle quotazioni, dato che il prezzo era davvero arrivato a dei minimi incredibilmente bassi, abbiamo sfiorato i 0,16 sul titolo, e chiaramente appunto tutti questi numeri, questi 100 miliardi di depositi fanno davvero gola, perché sappiamo tutti che l'Italia e l'italiano è un cliente molto risparmioso, quindi non mi stupiscono questi numeri, e MPS di fatto è quello che tecnicamente viene chiamato un titolo turnaround, ovvero o la va o la spacca. Ecco, questo diciamo che potrebbe essere davvero un investimento che nel lungo termine potrebbe pagare, dato che anche in vista di un potenziale rialzo dei tassi il business bancario potrebbe tornare a essere profittevole, tant'è che gli utili per MPS sono attesi già a fine del 2019. Un altro 30 secondi di tempo per lei, di scacciati, solamente per raccontarci cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista invece del petrolio, che sarà un altro tema caldo dei prossimi giorni, visto che c'è un meeting Russia-OPEC a Vienna, sempre per discutere sul tema dell'eccesso di offerta di petrolio in circolazione. Quanto inciderà? Il meeting più importante è atteso per fine novembre, appunto, dell'OPEC, ma questo appuntamento è rilevante per le quotazioni internazionali, a suo avviso? Allora, mercoledì alle 16.30 appunto abbiamo la comunicazione sulle scorte di greggio, che già da mesi stanno di fatto calando. Il prezzo si è attestato già da più di 10 sedute sopra i $50 a barile, cosa che non succedeva da praticamente 2 anni, quindi segno di stabilità e di forza per questo trend al rialzo che si sta sviluppando. La notizia secondo me è che all'interno dell'OPEC si comincia a ragionare, si comincia a comunicare tra i vari paesi aderenti, e personalmente qui a investire.biz siamo convinti che il trend possa continuare almeno fino a $60 al barile. Molto quindi bene, ecco, diciamo un segno di ottimismo anche per i mercati, che vedono anche quello spinge. È un tema che spinge un po' l'economia in generale. Grazie a Luca Di Scacciati. Lei ci sarà nei prossimi giorni in Borsa Italiana al TOL, al Trading Online Expo? Assolutamente sì, bene. Sono anche relatore in due eventi, quindi hai potete visto? Trovare sul programma sito di Borsa Italiana. Esattamente. Esatto. Grazie Luca Di Scacciati. Quanti anni fa questo ragazzo? Sai che è giovanissimo, tra l'altro. Luca, sì, sì, però. Si sente anche dalla voce. Buon lunedì e buona grazie. Settimana. Benissimo. Allora, grazie. Guarda come, giornata. Grazie Luca, come siamo puntuali stamattina alle 10:45, pronte a dare la linea a Paolo Corleoni, al traffico e a tutta la regia. Cuore e denari. Manca ancora una settimana ad Halloween, ma ci stiamo già organizzando. Io... Il colore della tua giacca è già colore zucca. Zucca, mi sta molto bene. Bel, benissimo. Forse mi travesto da zucca o da strega, tu? La spaventapasseri al femminile, non lo so, ci penso un attimo. Oppure un bel vampiro, perché il vampiro ha il suo fascino. Guarda, anche il presidente Renzi in questi giorni ha evocato questa immagine, lo ridiremo dopo, lo ricorderemo. Il vampiro, sì, è stato evocato da Renzi, ma continua a un fascino che, pensa, ha colpito e conquistato anche una società scientifica, la SITA, la Società Italiana di Terapia Antinfettiva, che ne ha scelto uno, anzi, per essere precisi, ha scelto un super vampiro, per raccontare con uno spot che ha Rocky Tognazzi come protagonista l'incombente pericolo dei super batteri, i batteri in grado di resistere a tutti o quasi gli antibiotici disponibili. È una chiave che ci è piaciuta molto, indubbiamente originale, per raccontare una minaccia davvero seria che preoccupa i governi, le organizzazioni internazionali, di cui probabilmente, diciamo la verità, noi come cittadini non ne percepiamo tutta la gravità. Qual è l'ultima volta che avete preso un antibiotico e per cosa l'avete preso? Lo avete fatto su indicazione del medico? Oppure avete anche voi approfittato della confezione rimasta a metà nell'armadietto del farmaci di casa vostra? Perché mi stai guardando? E le abbiamo presi? E poi un'ultima domanda, poi mi taccio e presento il nostro ospite che abbiamo sì. Il piacere di avere in linea con noi. Poi rispettate le dosi, i tempi e la durata della terapia, oppure appena vedete un miglioramento dite vabbè dai adesso è fatta. Allora chiamateci, intanto in linea salutiamo il professor Claudio Viscoli, che è direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Genova al San Martino e presidente della SITA. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Allora, intanto complimenti, perché l'idea del vampiro, meglio del super vampiro, che irrompe come una nuova minaccia tra gli abitanti di un villaggio, è davvero originale ed efficace, perché racconta in modo un po' diverso quello che spesso noi non vogliamo, non abbiamo la conoscenza, la competenza per vedere e capire, perché parliamo degli antibiotici, che sono sicuramente utili, hanno salvato milioni di vite, ma se li usiamo male, i batteri imparano a resistere all'antibiotico e diventano resistenti. Ci spiega per bene, professore? Sì, questo è sempre successo da quando sono nati gli antibiotici, circa messi in commercio, diciamo usati su larga scala negli anni tra 1940 e 1945. Da allora i batteri hanno sempre imparato progressivamente a diventare resistenti ad alcuni di essi, e l'industria e la ricerca hanno sempre parato il colpo mettendo a disposizione nuovi antibiotici. E di fatto ultimamente sembra che la stiano un po' vincendo i batteri, perché questa reazione non c'è più stata, non così rapida, e quindi sono nati in giro per il mondo. E in Italia non ci facciamo mancare niente, quindi anche certo. Questo in Italia sicuramente è anche fanalino di coda in Europa su questo. In Italia abbiamo in circolazione negli ospedali alcuni batteri che sono molto difficilmente aggredibili. A qualche volta abbiamo dei pan resistenti, cioè resistenti a tutto, ma è abbastanza raro. Ma molte volte abbiamo dei microrganismi che sono sensibili oramai a pochissimi antibiotici. Aspettiamo che arrivino i nuovi antibiotici, qualcosa di nuovo sta arrivando. Professore, il problema è che non si limita solo agli ospedali, che le infezioni ci sono anche infezioni che si sviluppano fuori dall'ospedale, quindi interessa un po' tutti i cittadini, per questo la vostra campagna si rivolge a tutti noi, che siamo i principali fruitori degli antibiotici. Certo, beh, a parte il fatto che a tutti i cittadini può capitare di andare in ospedale anche per motivi relativamente banali, e poi comunque oggi come oggi gli antibiotici, senza gli antibiotici noi non potremmo curare tante malattie, che tante cose che adesso curiamo, lo facciamo perché abbiamo di fianco, di sicurezza, di riserva, gli antibiotici, che se compare una complicanza infettiva possiamo parare il colpo. Fuori dall'ospedale la situazione sicuramente è meno grave, non c'è dubbio. Però per esempio certi Escherichia coli, che sono dei comuni batteri che possono causare infezioni delle vie urinarie, specialmente nelle donne, sono diventati più difficili da trattare, perché alcuni degli antibiotici più comuni che noi usavamo adesso non funzionano più. Quindi sicuramente un problema interessa anche fuori dall'ospedale. E poi teniamo presente che oramai noi teniamo fuori dall'ospedale anche malati, diciamo, che vanno e vengono dall'ospedale, perché anche hanno malattie croniche, ma tendiamo a lasciarli il più possibile fuori dall'ospedale. Non dimentichiamo infine le residenze assistite, dove anche lì ci sono malati che sono predisposti, persone anziane, defedate, con mille morbidità concomitanti, quindi anche questi sono purtroppo suscettibili a questo fenomeno di essere colpiti da infezioni da germi resistenti. Professore, ho letto un dato abbastanza eloquente ma anche un po' inquietante, che entro il 2050 le infezioni resistenti agli antibiotici potrebbero essere la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di oltre 10 milioni di vite, più del numero dei decessi attuali per il cancro. Vorrei un commento e sapere se... Non faremo qualcosa, questo che lei cita è un documento che è stato commissionato da David Cameron, l'ex primo ministro inglese, a un economista, Jim O'Neill, il quale ha fatto un lavoro eccezionale facendo queste previsioni basate su... Ed è strano appunto che sia stato un economista a fare questo, non un medico, non un ricercatore. Proprio ha fatto queste previsioni basandosi su quello che succede nel mondo, perché non è soltanto l'Europa, ma bisogna pensare all'Asia, per esempio, e anche agli Stati Uniti. Ha fatto queste previsioni e ha detto se non ci muoviamo stiamo per perdere quest'arma prodigiosa, perché è un'arma prodigiosa, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma è un'arma prodigiosa. Noi i nostri nonni morivano di polmonite, da pneumococco, e noi non moriamo più di queste cose qui. In guerra i soldati morivano di cancrena, di setticemia, e adesso ci sono gli antibiotici, quindi è un'arma miracolosa. Va usata bene. Certo. Allora, ecco. Professore, ho due domande da farle dai nostri ascoltatori. Flash al 349-238-6666. Una arriva da Umberto e ci scrive: che mi dite dell'uso massiccio di antibiotici nell'allevamento degli animali, che poi passano nella catena alimentare? È una delle cause della resistenza antibiotica dei batteri? Questa è la domanda di Umberto. Sì. Assolutamente sì. Queste ci sono delle regole precise che spesso vengono disattese in Europa su quanti antibiotici si possono usare negli allevamenti degli animali, sul perché si possono usare, certamente non per stimolare la crescita. Quindi il signor Umberto ha assolutamente ragione, questa è una delle cause. Diciamo, le cause sono il cattivo uso degli antibiotici che è stato fatto un cattivo uso a volte dai medici, è stato fatto un cattivo uso dai cittadini, come diceva lei prima, ed è stato fatto un cattivo uso negli allevamenti degli animali. Ed è vero che noi possiamo mangiare carni che contengono per esempio microrganismi che sono diventati resistenti agli antibiotici a causa del troppo uso che è stato fatto in vari allevamenti, in varie situazioni, in vari esempi. C'è una certa quantità che si può usare, non di più e non di meno, e non si possono usare se non per cura dell'animale, naturalmente. Professore, torneremo sicuramente ad affrontare questo tema che ha interessato i nostri ascoltatori, che possono naturalmente inviarci le loro domande a cuoredenari@radio24.it. Intanto un sito www.antibioticilanostradifesa.it, dove potete trovare tutte le informazioni e anche un uso corretto degli antibiotici. Professor Viscoli, grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo presto. Intanto andiamo a sentire che cosa sta succedendo sul al nostro GR, la linea subito ai colleghi della redazione, poi Cuore Denari di nuovo con voi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Radio 24, verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Cuore e denari. È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no. Dracula, Dracula, Ebbene sì, la lotta a quelli che sono stati definiti vampiri è uno dei temi più discussi di queste settimane, questa settimana, nelle settimane di Halloween. Il tema ci sta proprio a fagiolo, a pennello, a vampiri, cocco di pippa, sì. Infatti. Allora, abbiamo raggiunto nel 2015 il record di tutti i tempi con quasi 15 miliardi recuperati, ma lo facciamo senza il modello punitivo del passato che puntava su un sistema vessatorio. Per noi il cittadino va coinvolto prima, non stangato dopo. Dopo i gufi, insomma, facciamo i conti anche con i vampiri. Chi l'ha detto? Renzi, nella sua newsletter del 17 ottobre. Gli ha risposto Bersani. Anche qui non si tratta di combattere i vampiri, si tratta di riconoscere il principio per cui per pagare meno bisogna pagare tutti. E vabbè, però qua intanto quello che dobbiamo affrontare è una situazione di buoi che sono scappati dal recinto, quindi chi in passato ha un arretrato fiscale, qualche cartella esattoriale sul groppone, adesso vuole regolarizzare le sue posizioni, ha questa nuova grande opportunità offerta dal governo. Da giorni non si parla d'altro, tra i provvedimenti contenuti in legge di bilancio sono di certo tra i più attesi l'addio ad Equitalia, la rottamazione delle cartelle esattoriali, il decreto fiscale che contiene tutto questo c'è, oggi è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non ho visto personalmente, adesso vediamo se ce lo possono confermare i nostri ospiti, ma c'è un grande dibattito intorno al destino riservato alle multe stradali trasformate in cartelle. Sarebbero state oggetto della rottamazione oppure no? Alla fine è prevalso il sì. Anche le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada recapitate da Equitalia a casa degli automobilisti indisciplinati potranno essere rottamate. È un tema popolarissimo che ha fatto raddrizzare le antenne a tutti i contribuenti, in particolare ci immaginiamo a quelli di Milano, che è la città, abbiamo scoperto in questi giorni, no, in realtà forse già questa statistica è stata pubblicata altre volte, che detiene il record delle multe, secondo le denunce del Codacons, che parla anche di eccessiva discrezionalità dei vigili e degli ausiliari, perché hanno elaborato persino, Nicoletta, una top 10 delle multe più assurde che sono inflitte agli automobilisti milanesi. Ci piacciono milanesi. Queste cose. No, quella che mi ha fatto divertire di più è stata quella del parcheggio sotto gli alberi, come nell'esempio della zona di Viale Abruzzi, che noi conosciamo molto bene. È vietato parcheggiare lì sotto in quanto zona prato, è però una pratica tollerata tutto l'anno perché la gente va, la mette la macchina, quindi la mette lì sotto, tranne però quando i vigili urbani decidono di no e multano a tutto spiano, salvo poi tornare alla normalità della violazione tutti i giorni restanti dell'anno. Quindi c'è il giorno della multa. Dipende come va il bilancio del comune, probabilmente. Quando c'è bisogno di fare un po' di cassa si va in Viale Abruzzi e tutte le auto parcheggiate lì sotto gli alberi, ma insomma quello è un viale alberato, ma ce ne sono altri a Milano che vivono la stessa situazione. Dopo questa partenza un po' folcloristica, saluto e ringrazio per essere con noi Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buongiorno a tutti. Tu abiti a Roma adesso, non in Viale Abruzzi a Milano, per cui il problema non ti tocca, immagino. No, beh, ci sono comunque altre situazioni, penso ci siano in ogni città d'Italia, no? Esatto. Saluto e ringrazio anche per essere con noi un'esperta di questioni fiscali e tributarie per il Sole 24 Ore, Rosanna Cerno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci. Benvenuta, qua anche a noi. Buongiorno anche a lei. E sono i nostri ospiti di oggi con cui parliamo di queste ultime novità che emergono dalla messa a punto della norma con cui il governo punta a recuperare complessivamente una buona parte dei Non so, Giovanni, se è una cifra confermata, 51 miliardi di euro iscritti a ruolo e rimasti in magazzino scontando sanzioni, interessi di mora, ulteriori sanzioni e somme aggiuntive. Questa è la cifra? Sì, no, i 51 miliardi sono quelli che si possono riscuotere. In realtà quelli che si dovrebbero riscuotere sono 1058 miliardi. Ecco, all'ennesima potenza, esatto. Allora, Giovanni, andiamo subito a spiegare come funziona in definitiva per le cartelle esattoriali. Andiamo subito alla ciccia che aspettano gli ascoltatori stamattina, che se vogliono possono anche chiamarci. Non ci offendiamo. 800 24 00 24. Come funziona in definitiva, dicevo, per le cartelle esattoriali che riguardano multe per le violazioni al codice della strada. Potranno essere, dunque, ce lo confermi, rottamate anche loro, e da che cosa si viene esonerati? Assolutamente. Fanno parte della rottamazione, però c'è soltanto lo sconto sugli interessi. Questo perché il cuore della contestazione nelle multe stradali è la sanzione amministrativa. Quindi se si fosse scontata la sanzione amministrativa, di fatto si sarebbe annullata completamente la pretesa. Invece l'operazione è quella di consentire di rottamarle con lo sconto sugli interessi e su un'altra componente, che è una maggiorazione che è presente da una legge del 1981, che non è detto che però ci sia in tutte quante le violazioni al codice della strada. Quindi la rottamazione funzionerà per le multe stradali esclusivamente su queste voci, quindi sarà comunque un importo più limitato rispetto alla rottamazione degli altri tipi di cartelle esattoriali, che ad esempio riguardano contestazioni originali dell'Agenzia dell'Entrata o dell'INPS, tanto per fare alcuni esempi. E la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, che è oggi, è importante perché da oggi scatta il conto alla rovescia per poter presentare la domanda di adesione alla rottamazione. Cioè, di fatto ci saranno 90 giorni di tempo per poter chiedere di partecipare a questa operazione di sanatoria. Non ci dire tutto adesso, Giovanni, aspetta un attimo, adesso andremo a questi 90 giorni. Scopriamo, però, grazie, le carte piano poco piano alla volta. Quindi però è importante che ci abbia subito precisato che, attenzione, se il decreto viene pubblicato oggi, come in realtà dovrebbe essere, da oggi partono però i 90 giorni appunto di tempo per poter fare richiesta. Questa che Rosanna, certo, a Cerno, in realtà non si chiama proprio rottamazione o si chiama definizione agevolata, ho letto dai giornali. Sì. No? Ecco. Sì, si chiama definizione agevolata perché in realtà le imposte, i tributi o, come diceva Giovanni, le contravvenzioni comunque si pagano per intero. Cioè, quindi se ho ricevuto una cartella di pagamento, tra l'altro fino al dicembre 2015, nella cartella di pagamento mi viene richiesta un'imposta, facciamo un esempio, l'IVA oppure l'IRPEF, quell'imposta non mi viene scontata, certo, la pagherò al 100%, quella che mi viene stralciata è la sanzione, ecco perché viene considerata una definizione agevolata. Certo, però insomma, per renderla un po' più semplificata invece nella testa dei nostri ascoltatori, continuiamola a chiamare rottamazione. Per aderire a questa definizione agevolata, dottoressa Cerno, dei carichi affidati agli agenti della riscossione, poi cercheremo anche di capire questa storia che la riscossione scompare, tutta questa attività finisce in capo ad Equitalia, coincide anche in questo nuovo meccanismo di definizione agevolata. Però ecco, per aderire a questa, tra virgolette, rottamazione, si devono prendere in considerazione tutti quei carichi fiscali pendenti, chiamiamoli così, che vanno, lei ci diceva, come termine ultimo al dicembre 2015, ma si parte da quanto? Quanto all'indietro si può andare? 2000. Quindi, in verità, la norma parla dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 fino al 31 dicembre 2015. Cioè, cosa vuol dire? Il ruolo è un'attività interna che fa l'Agenzia delle Entrate, la cosiddetta iscrizione a ruolo. Cioè, quando abbiamo ricevuto ad esempio un controllo dall'Agenzia delle Entrate e non definiamo, cioè nel senso che non paghiamo prima all'Agenzia delle Entrate un atto impositivo, quell'atto successivamente, si dice, quel debito che noi dobbiamo all'Agenzia delle Entrate viene iscritto a ruolo. Cioè è un elenco di debitori che l'Agenzia delle Entrate trasmette ad Equitalia. Quindi per tutte le trasmissioni di questi elenchi di debitori che sono state fatte dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015, allora in questo caso c'è la definizione agevolata. Quindi, per dirla tutta, il contribuente può pur aver ricevuto ad esempio una cartella di pagamento i primi mesi del 2016, no? però potrebbe rientrare in questa definizione agevolata perché il ruolo è stato iscritto fino al 31 dicembre 2015. Chiarissimo. Allora, un altro tema importante che non era chiarissimo, almeno nella stesura iniziale del provvedimento, non era chiarissimo fino a venerdì scorso quando con Marco Lombardo abbiamo cominciato a preparare la scaletta per stamattina, poi tante novità sono arrivate nel weekend e tanto ne ha scritto anche Giovanni Parente con altri colleghi della redazione di Norme e Tributi. Allora, dalla stesura finale del provvedimento, Giovanni, è scomparsa la possibilità chiesta dai comuni di poter aderire alla sanatoria anche se riscuotono in proprio multe e tributi locali. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa in più, dobbiamo fare un passo indietro perché ci sono modalità diverse per la riscossione proprio per esempio delle multe fra comune e comune, no? C'è chi riscuote in proprio e altri che invece affidavano ad Equitalia, quindi alla luce del provvedimento attuale, che cosa cambia in merito a questo aspetto? Questo è uno degli aspetti che rimane controversi, perché non essendo stata disciplinata questa possibilità, esatto, è una questione che secondo me andrà disciplinata molto probabilmente alla legge di conversione. Però voglio fare un piccolo inciso che è importante perché le norme nella loro criticità poi parlano. La norma non parla di Equitalia, ma parla di agenti della riscossione. Quindi, beh, giustamente, avendo previsto di farla scomparire, Equitalia è chiaro che nella norma non potevano continuare ad utilizzare i riferimenti a questo soggetto, no? Esatto, non parla di un solo concessionario, perché magari i concessionari della riscossione sono diversi anche perché... Giovanni, dove mi sei sparito? Vabbè, magari adesso... Vedi, è sempre così, sul più bello uno dice, no, ecco, esatto, sto per... Rosanna Cerno, vuole completare lei? Sì, Giovanni voleva dire questo, si parla di agente della riscossione perché Equitalia in verità noi sembra che esista da tanto tempo, ma in verità è operativa dal 2006. Esatto, la riforma della riscossione c'è stata grande in quel 2005, periodo. Nel 2005, quindi è stata poi costituita nel 2006 ed è stata operativa da ottobre 2006, quindi precedentemente dal 2000 al 2006. Neanche il decimo compleanno gli hanno voluto far festeggiare. Esatto, prima che, sì, proprio esatto, il compleanno di Equitalia fa 10 anni. E prima c'erano i concessionari privati, no? Quindi erano delle banche che con gara ad evidenza pubblica riscuotevano per conto dello Stato e quindi c'erano questi concessionari prima. Ecco perché si parla genericamente di agente della riscossione. Certo. Ecco, questo aspetto appunto, se abbiamo recuperato Giovanni, visto che la domanda l'avevo fatta a lui, lo faccio completare a lui questo ragionamento. Allora, che cosa cambia da comune a comune, Giovanni, in relazione all'agente della riscossione? Non ce l'abbiamo ancora? Ah no, scusate, non avevo capito. Dottoressa Cerno, la questione appunto della discriminazione dei comuni, discriminazione, ho utilizzato un termine che non va neanche bene. Allora, qualche comune si affida ad Equitalia per la riscossione, altri invece agiscono in proprio con altri soggetti. Cosa cambia alla luce della legge fiscale appunto approvata in queste ore? Che continueranno o eventualmente i comuni potranno sempre sulla base di convenzioni diciamo affidare la riscossione dei propri tributi a quello che sarà il nuovo agente della riscossione, che poi dovrebbe essere una nuova società che si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, oppure possono continuare in proprio a riscuotere, diciamo hanno molta libertà in questo. Però quello che io avevo capito fino a qualche giorno fa è che in realtà i comuni che avessero utilizzato fino ad ora, intendessero continuare a farlo, agenti diversi appunto da Equitalia, dovevano dare una comunicazione di adesione a questa nuova fase di rottamazione. Esatto. Ecco. Sì. C'è una delibera, devono fare una delibera, dopodiché se decidono appunto di aderire a questa nuova possibilità di definizione agevolata dovranno pubblicare sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni da oggi appunto questa delibera di adesione, così che ogni cittadino diciamo consultando il sito del comune può capire il comune ha deciso di aderire o meno. Vabbè, quindi c'è anche questa complicazione, direi. Giovanni Parente, la sanatoria appunto lo abbiamo più o meno già specificato, ma su questo bisogna mettere le idee bene in chiaro a beneficio dei nostri ascoltatori contribuenti. Non avviene automaticamente perché il cittadino interessato deve presentare un'istanza. Dacci tutte le tecnicalità di questo aspetto, a chi e come deve essere fatta la domanda appunto di la richiesta di rottamazione di definizione agevolata. Certo, Come dicevamo prima, da oggi decorreranno i 90 giorni per poter presentare questa istanza. L'istanza va presentata all'agente della riscossione interessato, diciamo che in prevalenza Equitalia, ecco, quindi se ho la cartella con Equitalia la dovrò presentare ad Equitalia questa istanza. Come sarà l'agente della riscossione, quindi ritornando nello specifico Equitalia, a dover mettere a disposizione un modello che sarà poi scaricabile anche dal sito istituzionale, quindi via internet, non è che bisogna recarsi di persona allo sportello per poter aderire alla rottamazione. La norma fissa 15 giorni di tempo per poter mettere a disposizione questo modello. Dopodiché nella compilazione del modello si può scegliere se versare tutto in un'unica soluzione. Oppure quattro rate, esatto, sono quattro le rate che in questa data la possibilità appunto di dilazionare il pagamento, comunque con delle deadline precise, perché l'ultima dovrà essere versata entro il 15 marzo del 2018. Ah, esatto. Quindi non 2017 ovviamente, perché no, non c'è neanche il tempo. Nell'ultima stesura della norma si è andati con l'ultima appunto possibilità di rateizzare fino al 15 marzo 2018. Non è stato fissato da nessuna parte un importo massimo o minimo all'interno del quale, oltre il quale, si può accedere alla rateizzazione, no Giovanni? Questo aspetto non c'è, almeno nelle norme, nelle ultime norme che abbiamo visto noi, su cui abbiamo scritto noi, non c'è un tetto massimo. Mm-hmm. Quindi è stato oggetto di discussione politica, ma insomma almeno nella stesura finale non c'è. Quindi insomma si può rateizzare volendo tutto quanto. Si vorrà rottamare tutto l'importo che stia pendente appunto con l'agente della riscossione. Certo. Dottoressa Cerno, facciamo chiarezza anche su chi resta assolutamente escluso da questa possibilità, quindi è inutile che vada a controllare sul sito del comune se ha aderito o meno alla nuova procedura, perché tanto comunque il fisco gli chiede tutto quello che non ha pagato in passato, con tutti gli interessi, tutte le more che devono essere versate. Chi è assolutamente escluso da questa opportunità? Ma in verità penso una platea di contribuenti non molto estesa, perché sono escluse dalla definizione agevolata, ad esempio l'IVA all'importazione, quindi è soltanto questa particolare tipologia di imposta sul valore aggiunto. Mm-hmm. Poi il recupero di aiuti di Stato, quindi se l'Agenzia delle Entrate ha recuperato aiuti di Stato, agevolazioni di Stato, allora in questo caso no. I crediti derivanti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, e ancora tutte le sanzioni pecuniarie o le altre ammende dovute per provvedimenti e sentenze penali, certo, di condanna. Chiudiamo con due aspetti importanti, poi andiamo ai mercati e all'approfondimento di cuore. Allora, ammettendo di aderire alla procedura appunto di rottamazione, decidiamo per esempio di pagare a rate, cosa succede se saltiamo un pagamento o se paghiamo in ritardo? Giovanni Parente. Questa è una norma molto tranchante, nel senso se si salta o il pagamento unico o una sola rata si decade dalla rottamazione, quindi sostanzialmente si perde poi la possibilità di fare gli altri pagamenti per completare appunto la procedura, e quindi chiudere i conti con la o le cartelle fattoriali che avevamo nei confronti di Equitalia o di altro agente della riscossione. Nel caso in cui questo avvenga, quello che è stato pagato diventerà una sorta di acconto che poi sarà scontato da comunque gli importi che saranno dovuti anche in futuro. È chiaro che questa procedura ha anche dei vantaggi da un punto di vista di tutele contro le maniere forti della gente della riscossione, perché chi aderisce alla rottamazione di fatto blocca le nuove ipoteche, le nuove azioni esecutive, certo. Esatto, e anche le azioni esecutive che potrebbero essere, ad esempio, benissimo, un pignoramento. Ecco. Ci fermiamo, faccio fare la domanda a Vincenzo da Cesena, perché Vincenzo, veloce, a sua sorella sono state notificate due multe? Sì, due cartelle Equitalia, nelle quali le scadenze sono a 60 giorni. Allora, certo, chiedevo, dal momento che la definizione agevolata va a 90 giorni, due termini tra di loro, come in che rapporto confliggono? Bravo Vincenzo. Rosanna Cerno, i termini di queste scadenze, insomma, ma fanno a pugni. Intanto dobbiamo chiedere all'ascoltatore quando è stata notificata la cartella di pagamento e il ruolo, perché è sempre importante capire che il ruolo è stato consegnato dall'Agenzia delle Entrate o comunque dall'ente impositore entro il 31 dicembre 2015, prima cosa. Poi, il fatto che scadano i 60 giorni per pagare una cartella, questo non incide sulla definizione agevolata, perché questa definizione o rottamazione, che dir si voglia, serve proprio per le le castelle non pagate, quindi che, per le quali sono passati da tanto tempo, certo, i 60 giorni dalla notifica, quindi non incide il termine dei 60 giorni non incide. L'importante è capire che quelle castelle possano essere oggetto di definizione, e questo si vede proprio all'interno della cartella, cioè un contribuente che vuole capire se può aderire o meno alla definizione deve leggere sulla cartella che ha in mano e che non ha pagato il ruolo quando è stato reso esecutivo, perché nella cartella c'è scritto ruolo reso esecutivo, faccio un esempio, il 15 ottobre 2015. Allora io so in quel caso che posso presentare questa istanza per la definizione. Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, allora Vincenzo, se non è stata chiara la risposta, ci scriva, le faremo dare una risposta per iscritto appunto dalla nostra esperta. Grazie a Rosanna Cerno, a Giovanni Parente per essere stato con noi. Nicola ci voleva presentare il suo caso che ha già una rateizzazione in corso con Equitalia. Nicola, anche a lei rispondiamo in privato, così come a tutti gli altri amici che ci hanno chiamato e che non abbiamo fatto in tempo a mettere in collegamento. Mercati, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sono stanco, tanto stanco, sono stanco da. E dopo le multe adesso saniamo i debiti che alcuni di noi avranno contratto questo fine settimana con le proprie articolazioni, i propri muscoli, perché diciamola tutta, non sono solo i virus parainfluenzali a metterci KO, a farci sentire a pezzi possono anche essere, perché no, le imprese del fine settimana. C'è chi va magari a fare una castagnata, si arrampica. Oppure fa un giro in bici, fatto riesce... la castagnata, ma non mi sono arrampicata, lo dico. Ah no, ma vabbè, però era perché freddo, tu sei stati chiusi. Oppure ci sono gli sportivi della domenica. A me piacciono gli sportivi della domenica, sono quelli che non potendo fare attività sportiva durante il fine settimana vogliono comunque fare questo investimento per la loro salute e il benessere quando devono concentrarlo, quando non si lavora, il sabato e la domenica, ma a volte si paga il conto perché ci dimentichiamo di fare lo stretching, vogliamo tutto e subito. Insomma, non per tutti sarà così ovviamente, ma siccome noi ci teniamo ad avere ascoltatori in forma, giochiamo d'anticipo, perché a proposito dei proverbi di cui abbiamo parlato venerdì, mi raccomando, continuate a scrivere, vogliamo fare il libretto, io dico libretto, bisognerebbe dire ebook, dei proverbi alla Cuore Denari. Se non ci aiutate voi non si può fare, quindi scrivetelo. E intanto saluto il professor Paolo Boldrini, che è presidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Buongiorno professore, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Con lei volevo dire uomo avvisato, mezzo salvato, ma prima di farci salvare andiamo a capire da chi ci facciamo salvare. Professore, partiamo dalla parola fisiatra, è uno specialista su cui noi non abbiamo proprio le idee chiarissime, spesso lo confondiamo col fisioterapista, oppure qualche cosa di simile, anche se un po' diverso rispetto all'ortopedico. Insomma, chi siete? Beh, noi siamo prima di tutto medici specialisti, specializzati in medicina fisica e riabilitativa, e la nostra caratteristica è quella di non avere una o un tipo particolare di malattie come obiettivo della nostra cura, ma tutte quelle condizioni nelle quali una persona si può trovare quando perde per qualche ragione la sua capacità funzionale, cioè la capacità di muoversi, di essere attivo nel proprio ambiente di vita. Questo può accadere per malattie, diciamo fra virgolette, banali, come un trauma scheletrico o come appunto una contusione, oppure per malattie più serie e più gravi come un ictus, un tumore, un trauma molto grave, una malattia infantile congenita e altre situazioni. Per cui il nostro obiettivo è recuperare ove sia possibile la funzionalità e non solo curare, diciamo, la malattia che ne sta alla base. Ma ci rivolgiamo a voi quando il danno è fatto? Oppure riuscite anche a giocare un po' d'anticipo, ad aiutarci a fare prevenzione, a non mettere, come si dice, il piede in fallo? Questo sì, ed è una delle parti importanti della nostra attività, si chiama la cosiddetta educazione terapeutica, che pratichiamo non solo noi ma anche tanti altri specialisti. In sostanza si tratta di quando si teme o si suppone che una malattia possa diventare disabilitante, cercare di accompagnare la persona e di dargli delle indicazioni, dei consigli, un aiuto perché la disabilità si riduca, non si manifesti o addirittura scompaia del tutto. Questo per esempio riguarda, per fare un esempio, il campo delle scoliosi infantili, in cui non tutti i bambini o le ragazzine o i ragazzi devono essere curati e trattati, ma comunque tutti devono essere adeguatamente seguiti. Riguarda anche quelle condizioni, e qui ne parlo perché parliamo del dolore nel nostro congresso, in cui il dolore diventa qualcosa che crea paura nella persona. Spesso il dolore genera un circolo vizioso, come le diceva lo sportivo della domenica, ha paura di muoversi. In realtà la verità è che dovrebbe muoversi di più, il suo corpo gli sta dicendo che l'attività fisica che fa non è sufficiente e probabilmente dovrebbe entrare in una situazione di maggiore allenamento, anche dopo essere stati immobilizzati per una malattia, per esempio la paura, il dolore e la rigidità fisica deve essere combattuta. Professore, lei ha parlato di dolore. Io giocavo con la prima parte della nostra trasmissione in cui abbiamo parlato di rottamazione. A volte ci sentiamo proprio da rottamare quando siamo tutti indolenziti, diamo la colpa all'attività sportiva, diamo la colpa a volte anche agli anni e soprattutto in questa stagione con i primi freddi, l'umidità, la situazione peggiora. Ci aiuta a capire come possiamo distinguere i dolori articolari da quelli muscolari? Possono avere naturalmente delle cause diverse, ma come facciamo? E soprattutto a capire se il dolore che avvertiamo è un dolore che passa da solo e quindi lo lasciamo lì e poi in qualche modo sparirà, oppure è un campanello, una spia d'allarme che ci aiuta a capire che qualche cosa è successo o sta per succedere e quindi dobbiamo un attimo prestare attenzione a questo messaggio che il corpo ci manda. Certo, forse la prima cosa che possiamo dire per i nostri ascoltatori è che, come diciamo noi di solito, non tutto il male viene per nuocere, nel senso che ci sono alcuni dolori, sono delle spie importanti che vanno ascoltate nel nostro organismo, nel senso che chi ha una malattia influenzale, per esempio, ha un dolore dappertutto, come dicono i nostri pazienti di solito, ma questo è un segnale del fatto che l'organismo ha bisogno di essere messo a riposo e di non sovraccaricarsi. Lo stesso accade per lo sportivo della domenica, come lei accennava prima. Il capire quanto un dolore sia benigno o quanto sia invece legato ad una patologia importante, diciamo, è un po' il nostro mestiere, ecco, quindi cercare di aiutare la persona a comprendere quale sia l'origine. E direi che la cosa importantissima è l'ascolto. Noi medici forse siamo un po' poco abituati, ecco, ad ascoltare sufficiente il paziente, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente il racconto della persona e conoscere appena un po' il suo stile di vita e le sue abitudini per farsi già un'idea abbastanza chiara. Allora invitiamo i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, un numero per i vostri lamenti, per raccontarci dove e quando sentite dolore, quindi è un po' il numero del mugugno in questi ultimi 20 minuti di diretta. E a proposito di dolore, oltre alle caratteristiche del dolore in sé, perché sicuramente la descrizione del dolore aiuta il medico a capire anche il momento in cui insorge il dolore, se a riposo, se durante il movimento, se dopo, se di notte, se di giorno, bisogna anche capire come il dolore interferisce con le normali attività. Un dettaglio che per il fisiatra può fare la differenza. Ci spiega perché? Beh, certo che sì, nel senso che noi vediamo il dolore non tanto come un qualcosa da debellare in sé, ma come un qualcosa che va trattato e curato tanto quanto veramente limita la vita della persona. È vero che il dolore è quasi sempre una condizione che ci limita, perché quando abbiamo male da qualche parte tutta la nostra vita in qualche modo ne è influenzata. Però è anche vero che la risposta che possiamo dare noi come medici, o anche che il paziente, la persona, può dare a se stessa, va calibrata in base a ciò che la persona vuole fare malgrado, oppure come vuole superare il dolore. le faccio l'esempio, la nonna giovane attiva che vuole guarire da un dolore di spalla ci chiede spesso di poter prendere in braccio il suo bambino. Sì. L'atleta che invece vuole guarire da una lesione ci chiede qualcosa di molto più performante, cioè di tornare magari a giocare ad alto livello. È chiaro che in queste due condizioni magari il dolore può essere apparentemente lo stesso, ma la terapia, il progetto riabilitativo è profondamente diverso, nel senso che nel caso della nonna possiamo tollerare anche una terapia farmacologica un po' sedativa, ma che tutto sommato le consente di essere prendere in braccio il nipotino della sua, per l'atleta di alto livello capirà che invece dobbiamo impegnarci non solamente a sedare il dolore, ma anche a ritornare al gesto atletico, ritornare quindi ad una performance molto elevata. E questo fa parte proprio del rapporto fra persona e ambiente, che fa parte un po' del nostro essere specialisti in medicina fisica e riabilitativa. E a proposito di riabilitazione, se avete seguito un periodo, un percorso riabilitativo, chiamateci, raccontateci come è andata. È stato un percorso a ostacoli e l'avete superato con facilità, con difficoltà? Avete avvertito dolori? Siete ritornati subito in gamba? Professore, a proposito di dolori, nel convegno che si sta svolgendo in questi giorni a Bari, avete proprio dedicato una sessione al dolore maschile e a quello femminile. Sì. Quale differenza avete riscontrato? Beh, ci sono molti studi, ed è questo uno dei temi importanti del nostro convegno di Bari, che dimostrano le differenze fra i due sessi, sia nei meccanismi fisici che veicolano la sensazione dolorosa, le cellule, diciamo così in parole povere, che trasportano gli stimoli o che controllano gli stimoli dolorosi, sono in parte diverse fra uomo e donna. Poi ci sono differenze ovviamente genetiche nella risposta ai farmaci. Vi sono alcuni farmaci reclamizzati indistintamente per i due sessi che per esempio sappiamo avere differenze di risposta nella donna e nell'uomo. Ad esempio? Ad esempio alcuni antinfiammatori di uso comune, non posso fare il nome commerciale, certo. Ma insomma. Ma gli antinfiammatori diciamo, hanno risposte diverse. Hanno risposte diverse, non solo in base al genere, diciamo al sesso, ma anche in base al sesso. Poi non meno importanti sono i fattori di tipo che noi chiamiamo psicosociale, cioè la differente risposta, diciamo, anche in termini di abitudini di vita, in termini di vissuto del dolore fra uomo e donna, gioca elementi importanti. È importante forse dire che purtroppo per lei e per voi, per le signore e per le donne, il sesso femminile come prevalenza assoluta di sintomi dolorosi è quello che ne soffre di più. Questo lo sapevamo, mondo, insomma, anche perché sì, forse anche noi ci lamentiamo di meno. Può darsi che questo è un elemento psicosociale, sì, può essere che un elemento psicosociale di stigma, diciamo, verso la donna che si lamenta rispetto all'uomo che comunque è autorizzato a lamentarsi. Io dico sempre che i peggiori pazienti sono gli uomini dal punto di vista della possibilità di essere complianti quando fanno un po' male, e quindi certamente sì. Allora, professore, prima delle informazioni sul traffico voglio leggerle il messaggio di Daniela. È molto schietta, diretta. Soffro di dolore alla schiena soprattutto al mattino al risveglio. Per capire le cause può essere utile una visita dal fisiatra. Non ho soldi da buttare in terapie costose che danno un sollievo momentaneo, però correrei questo rischio da una visita fisiatrica? Che tipo di soluzioni vengono prescritte? Professore, una domanda complessa, pochi minuti per rispondere efficacemente a Daniela. Informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme con le vostre domande. Cuore e denari. Bicipite, trapezio, grande sale, piccolo rotondo, sterno, credo, mazzaga. Siamo tornati insieme, oggi stiamo facendo un tagliando al nostro apparato muscolo scheletrico. Ne parliamo con il professor Paolo Boldrini, che è presidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Professore, prima delle informazioni sul traffico, il caso di Daniela. Soffre di dolori alla schiena, soprattutto al mattino al risveglio. È tentata di farsi vedere da un fisiatra, ma non vuole buttare soldi in terapie costose che lasciano il tempo che trovano. Il fisiatra sarebbe il suo una buona idea? Un esperto di riferimento? Beh, diciamo che la situazione di Daniela è comune a moltissime persone, donne e uomini, ed è una delle situazioni dolorose più comuni al mondo. E la notizia buona è che più dell'80%, quasi il 90% delle situazioni che Daniela ci racconta, per quello che possiamo capire, è di origine benigna, cioè non è qualcosa che comporta delle malattie organiche serie o delle serie problematiche muscoloscheletriche, questo ovviamente in termini statistici. Certo sì, possiamo dare una mano, forse proprio nel senso che Daniela ci chiede, cioè quello su cui ci sforziamo di lavorare è evitare anche il ricorso a degli accertamenti inutili o quantomeno non particolarmente prioritari in queste patologie. Spesso si ricorre a indagini radiologiche, approfondimenti che in effetti con una buona visita e una buona colloquio con un medico specializzato possono essere evitati. Le cure, certo molte cure non sono affatto costose per queste condizioni, perché sono misure di igiene articolare, sono misure di stili legate agli stili di vita. Ciò che è importante è trovare uno specialista, e credo che un buon fisiatra lo possa senz'altro fare in tutti i casi, che aiuti a individuare quelli che noi chiamiamo i semafori rossi, cioè quelle situazioni spia, fortunatamente abbastanza rare, diciamo abbastanza. Ad esempio, professore? I semafori rossi sono per esempio spie di una situazione di danno ai nervi periferici associato al mal di schiena, quindi difficoltà di perdita di forza alle gambe, difficoltà nell'andare in bagno, nel controllare gli sfinteri, oppure dimagrimento importante che potrebbe essere la spia di una qualche malattia più seria. Ecco, sono un elenco che ne chiamiamo proprio in termine gergale di semafori rossi, che invece impongono degli approfondimenti. Poi ci sono i cosiddetti semafori gialli, che sono quelle spie legate spesso a dei fattori psicologici che la persona più o meno inconsciamente porta con sé, che sono quelle situazioni che ci portano a sospettare che questi dolori diventino un qualcosa di cronico, che cioè accompagna la persona al di là anche di quello che può essere un episodio singolo, e questa situazione va un po' presa con una certa cautela, va accompagnata, va evitato, ecco, che dal dolore acuto tipico di queste condizioni si passi a quella che noi chiamiamo la malattia dolore, cioè la persona che diventa, diciamo, da una persona il dolore si cronicizza, schiena, certo. Esatto, diventa una persona lombalgica, ecco, diventa l'aggettivo, diventa qualcosa che è un sostantivo per la persona. Questo è un problema serio che va affrontato con delle cure che spesso sono anche abbastanza lunghe, ma devono presupporre anche una collaborazione della persona, è certamente importante. Andrei da Francesco da Roma, Debora. Andiamo e poi professore, so che nel vostro convegno vengono presentate tante novità, non solo sul fronte della diagnosi ma anche della terapia riabilitativa. Molte però ascoltatori ci stanno scrivendo: ma per queste famose benedette cartilagini c'è qualche cosa che funziona? C'è qualcosa di nuovo? C'è chi suggerisce le compresse di cartilagine di squalo, c'è chi mi sta chiedendo: ma l'acido ialuronico funziona? Speriamo di avere tempo, se no ci torneremo. Francesco da Roma, rapidamente, buongiorno. Buongiorno, tra l'altro sono un po' emozionato. Io pratico come attività sportiva i balli caraibici, e ovviamente quando ritorno dalle serate, in particolare il giorno dopo, ho parecchi dolori. E questo non ho capito se è dovuto al fatto che faccio poche attività fisica ma vado anche in bicicletta, oppure c'è qualche altro motivo. Quindi volevo fare questa domanda a voi. Grazie al professor Boldrini, naturalmente. Allora, Francesco già ci piace perché balla il caraibico, e professore, poi alla fine però il giorno dopo un po' si lamenta perché ha male. Che cosa deve fare? Ballare il tango argentino? No, il primo consiglio per Francesco è continuare a ballare, nel senso che anche a proposito delle degenerazioni delle cartilagini o anche per esempio dell'artrosi di ginocchio, che è una malattia molto diffusa che affligge le persone, è dimostrato che un'attività fisica continuativa, regolare, consigliata con certe precauzioni, non è affatto dannosa, ma anzi mantiene l'organismo in forma. Quindi il movimento, al contrario di quello che molte persone pensano, funziona. Al di là degli episodi molto acuti, ad episodi proprio violenti di acuzie, va comunque conservato, perché è comunque un fattore di protezione e di rinforzo del nostro organismo. Poi su quelle che sono terapie farmacologiche ancora, diciamo, c'è una certa cautela, ci sono molti rimedi, ecco, che effettivamente è come per esempio preparati che vengono iniettati direttamente nelle cavità articolari, che possono dare un sollievo. Vanno sempre, però, questo lo consigliamo sempre, associati ad una corretta igiene di vita ed ecco ad una corretta conoscenza anche del proprio corpo. Quello che consigliamo spesso alle persone è una sorta di diario del dolore, che molte poche persone. Non mi dà una ricettina per togliere un po' il peso degli anni alle cartilagini, non l'avete ancora scoperta? La ricetta buona per tutto non l'abbiamo. Ecco, effettivamente dobbiamo dire questo. Abbiamo delle soluzioni che vanno concordate, personalizzate con la persona, e abbiamo tanti rimedi, ecco, ce ne sono sia di tipo farmacologico, e la farmacologia in questo ci aiuta ovviamente moltissimo, anche perché ora ci sono preparati che hanno meno effetti collaterali dannosi rispetto al passato, e anche trattamenti non farmacologici. Ad esempio, ecco, che abbiamo 30 secondi, siamo curiosi. Una tecnica che si sta sviluppando molto è una tecnica che apparentemente può sembrare strana, quella della cosiddetta stimolazione magnetica corticale, cioè delle stimoli che vengono dati in maniera innocua, diciamo, al nostro cervello attraverso un apparecchio appoggiato sul cranio, e che nel dolore cronico per esempio sta dimostrando una capacità di modularlo in senso positivo molto promettente. Siamo ancora, diciamo, nel campo del dolore cronico, ma questa per esempio è una metodica che qui a Bari stiamo presentando. Se ne state discutendo. Allora, se volete saperne di più, continuate a scriverci, invieremo le vostre richieste a tutta l'equipe dei fisiatri che sono riuniti, li facciamo lavorare tutto, e il professor Boldrini ci ha assicurato che ci manderà le risposte. Grazie professore, buon convegno. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo terminato, tu domani mi lasci da sola. Sì, ma ti lascio col neo e poi con la giornata della pasta. Quindi con due temi molto molto belli. Io parlerò di pensioni e demografia, insomma, anche per domani bolle in pentola, qualcosa di molto interessante. Buona giornata a tutti.